Carino. Carino. Carino. Che carino. Carinissimo. Senza parole, la lingua italiana ne comprende oltre 250.000. Usiamole. Magnifico, emozionante, sconvolgente, eccezionale, splendido, grandioso, fantastico, bellissimo. Buonasera, abbiamo cambiato la sigla. L'abbiamo trovata su misoginia.com e quindi abbiamo detto: ma perché non la facciamo nostra questa sera? Sì, sì, sì, abbiamo fatto proprio bene. Un saluto dalle ragazze bruschine, che non sono le ragazze cincin. Non sono fruttine, sono bruschine, bruschettine. E cosa si diceva prima? Che è comparso nella sigla il termine ti affasciniamo, si diceva, ma gli spettatori di Colpo Grosso, che per il 99,9% erano maschi, lo 0,01% erano madri che origliavano. Sì. Cioè, è apparso questo vocabolo, ti affasciniamo, ma mi sa che di fascino qua non ce n'è, non se ne parla. Ed è altamente sconsigliato andare a leggere i commenti su YouTube. relativi a questo file, le ragazze cin cin. Che... Tutti frutti, girls. Mamma mia. Un saluto ad Umbertone. Vabbè. Nazionale. Oddio, mamma, che roba. Ah, mi pare di averlo visto in una foto orribile. Vabbè, no, lasciamo perdere. No, forse è quella dove è in canoa con Galeazzi. No, possibile fosse con la Moritz e che l'altro favone lì, il trio, proprio imbarazzante, vabbè, no, forse mi sbaglio, spero, no, vabbè. Ma via, tira via. Tira via, via, via. Iniziamo con le nostre cose che sono serie. Bene, sì. Prima siamo di introdurre, però, oggi. Cosa dici? Prima di introdurre. Beh, prima di oggi è tutto a Legun 3. Si parte dalla fine, quindi si parte dai consigli per il fine settimana, perché così non ci dimenticheremo. E siccome ci sono tante robe belle, abbiamo deciso di passare subito alle informazioni. Allora, un attimo solo. Squillino le trombe. Sì, sì, sì, tutti, anche i tamburi squillano, guarda, oggi. Allora, innanzitutto oggi al Next Emerson, collettivo Nuovi Rumori, abbiamo gruppi che vengono dalla Norvegia, dall'Australia, poi da Pisa e da Empoli. Bello questo. Tutte le strade portano a Firenze. Sì, sì, sì. E, boh, questo è oggi. Mi sono un attimo persa perché stavo cercando di capire, non conosco i gruppi, quindi cercavo di capire che tipo di musica facessero. Le andate a vedere nel sito e fate prima. Suppongo rock and roll, sì, o post... però non post voglio hardcore. Cazzate, quindi cercateveli. Next Emerson, Nuovi Rumori, 5 ottobre, boh. E invece domani, bene, guarda, sempre all'ex Emerson... abbiamo una cena benefit di finanziamento per le BSA, per il casino che è successo a Livorno. Abbiamo una cena di cacciucco, pensa, e 5,5 per la versione per i vegani, perché barra vegetariani. Esatto. E bisogna prenotarsi, anche questo io vi rimanderei comunque al sito, che dici? Sì, perché non diamo contatti per radio, pare però... brutto. Se andate sul sito dell'Emerson sicuramente... Anzi no, guarda, io il contatto mail lo do, via. Chinotto con la K, 66@gmail.com. Chinotto 66, grande. Tu ascoltavi gli Skiantos. Che bello. O li ascolti tuttora, speriamo. È probabile. E poi dopo concerto, punk, rock, bla bla bla, street roll, questo è quanto. Lunghissima questa settimana, sì, è piena, sì, poi piena. Sì, tutto scritto così, faccio sempre un gran casino. Poi abbiamo il 7 ottobre, sabato, ah che bello, al parcheggio in fondo a Viale Corsica, la terza festa di Rifredi, dalle 15 con Mercato Contadino, banchini, 15:30 ci prendiamo cura del verde abbandonato della via, 16:30, dalle 16:30 alle 18:30 l'assemblea sulla difesa dei territori. E tutto a cura del Comitato Abitanti di Viale Corsi, che altre varie realtà cittadine. Alle 16 un workshop di costruzioni in bambù, pensa. Bello. 19:20 teatro, orazione intima di Giulio Conti Bernini. E alle 20 cena popolare benefit per il comitato, appunto, che si è occupato, ha seguito un po' questa faccenda di Viale Corsica, che sicuramente avrete sentito anche nella trasmissione Passaggio a Nord-Ovest. E poi alle 21:30, fantastico concerto rockabilly di Simone Di Maggio Duo. Wow. E poi DJ set, Mimi Funky Soul, bla bla bla. Guarda, bisogna andare, bisogna andare. Che fine andare. Settimana animato. Io pensare, guarda, che me l'ero già visto. Dopo la festa della floricoltura. Sul divano. Ecco, dopo che si va a vedere qualche fiorellino, a comprare qualche peperoncino. Sì, figurati. Con l'entrata gratis alla floricoltura si va tutti... alla festa di Rifredi. A me è stato dato il DASPO da quella struttura in quanto pollice nero e non posso entrare. Sei entrata ed è morto. Eh sì, quindi anche non mi fanno più rientrare. Il dragone di ceramica. Esatto. Quindi c'è proprio il cartellino, è stato l'ingresso. DASPO alla Nenia. DASPO Nenien. Bene. Quindi, ragionando al contrario, a questo punto dovremmo darvi il pezzo quello serio. Ok. Che ne dici? Ma sì. Ci siamo? Ci siamo. I fetenti, ipocriti lettori, guitti di merda, fanti di cuori, ministri puzzoni, preti rompicoglioni, dentisti assassini, pustolosi bambini. registi maliardi, bancari bugiardi, filologi dotti, architetti corrotti, primari fascisti e commercialisti, regine di cuori e vivi settori. Vicini cornuti ed arbitri venduti, pedofili porci, turisti spilorci, vecchietti arrapati, commessi palestrati, psichiatri arroganti e principi cantanti. Adulatori untuosi, archivisti pallosi, parenti serpenti e sovrintendenti, badanti albanesi, adolescenti obesi, attori invidiosi, avvocati spocchiosi. Performer falliti, mezzi busti incalliti, baristi invadenti, velisti impenitenti, portieri imbranati, stilisti ossigenati, agenti accertatori, illusi re di cuori. Aspiranti veline e suore orsoline, cacciatori di tordi e critici balordi. Occhialuti accademici del cazzo, cavatevi dai piedi che v'ammazzo. Interrotta bruscamente. D'altronde era brusca, per quindi non c'era altro modo di interrompere questo pezzo. Vabbè. Questo pezzo che non mancava... si sa perché è successo, ma mancava un minutino, insomma. Un po' meno, sì, poca roba. Va bene. Un minutino. Che cosa ho detto? Sì, sì, l'hai detto, dai, ci sta. Vergogna nera. No, no, dai, dai, tranquilla, va tutto bene, va tutto bene. E quindi tutta questa questo assemblaggio di parole, di accostamenti tra un nome, una professione e un aggettivo spregevole, per fare un salto molto, molto, molto all'indietro, perché nelle puntate scorse si è parlato di filologia, la puntata scorsa è stata quella incentrata sulla parola del mese, su tutte le sue sfumature, insomma, tutto quello che è nato da una sola parola e nell'uso quotidiano dei media e della comunicazione che se ne fa. E questa settimana invece vi parliamo di parole in generale, come consultarle al meglio effettivamente sul vocabolario, come avere dei piccoli trucchi quotidiani per non rimanere mai scoperti, e poi anche la Nenia ci parlerà un pochettino di una cosa molto molto molto particolare che riguarda la lingua dei segni. Per lo più, oppure forse aveva cambiato idea. Ora vediamo. Lo decido lì per lì. Lo decido lì per lì. Donc, iniziamo dalla cosa più semplice, no? Che è stato l'incubo di tanti, e soprattutto mi sa anche una delle cose meno, come dire, considerate in realtà nella scuola elementare, che oggi si chiama primaria, che è lo studio della consultazione di un vocabolario. Io mi ricordo di aver avuto alle medie anche compagni di scuola che non sapevano utilizzare il dizionario. Perché non sapevano dove era la F. Cioè, non sapevano andare a... A, B, C, D... No, io ne avevo anche uno che faceva A, B, C, D, E, F, G. E soffiava tantissimo. Maledetti, maledetti, maledette maestre, maledetti insegnanti e maledetti studenti. Chiaro. Consultare il vocabolario, ma prima, se vogliamo, visto che andiamo un po' a ritroso, vi avremmo dato magari questi consigli alla fine della puntata, invece ve li diamo ora. E riguarda, non so se lo conoscete, il famoso, famosissimo, celeberrimo sito unaparolealgiorno.it. Che bello! Che è la nostra colazione. Sì, io ce l'ho nelle paginine salvate, e quando mi sveglio un minuto prima della sveglia è la mia prima pagina, ecco, del giorno. C'è chi guarda Facebook e chi invece un pochino si cura, perché in realtà è, insomma, è una cura. È fatto molto bene, sì. Oltre a essere super professional dal punto di vista linguistico, Madonna. È molto carino, è sì, curato, sì, sì. È molto divertente in realtà, ecco, perché in realtà ci sono altri siti, ma anche in semplici dizionari, quali Treccani o simili, sono altrettanto belli, sì, e sofisticati. Questo riesce a essere anche accattivante, un po' divertente, simpatico, insomma. Poi, cioè, hanno poi questa newsletter bellina che io quella non ti arriva tutte le mattine alle 6.03 una sì, mail con una parola scelta da un... come dire, segnalata da un lettore, sì, insomma, sono contributi, no, perché le scrivono sempre due tenutari del sito web che non so chi siano in realtà. Secondo me sono sicuramente persone carine, ecco. So che sono due uomini, su questo, anche se sembrava ci fosse una pesante sì, mano femminile dietro, in realtà sono due uomini. Perché è sofisticato, ma hanno un modo di scrivere sì, molto sofisticato, sì, sì, questo spesso viene confuso con la femminilità. Visto che, esatto, gli uomini al giorno d'oggi sono considerati generalmente dei trogloditi, rozzi. In realtà non è così, visto che si sono parla tanto di parità io, dei sessi. Sicuro. Sono più rozza io, sì. Esatto. Decisamente. Anche io. Bene. Ve lo posso far sentire? No, niente. No. si è autocensurata da sola, pensate un pochino voi a che punto siamo, della faccenda. Un ottimo punto, perché siamo consapevoli di quello che diciamo e sappiamo quando fermarci. Visto che sto scorrendo la scaletta al contrario, che ne dici? Dove ci fermiamo? Che senso? Ritorniamo a un ordine cosmico delle cose? O... Ma sì, dai. Se parliamo un po' di vocabolario, di come consultarlo, insomma, possiamo fare così. Ecco, vocabolario monolingua. Esatto, vocabolario monolingua della lingua italiana, che serve per la ricerca di termini che non conosciamo, ovviamente. Quindi... io qui ho una scaletta che ho preso in mano da un manuale della Treccani per i bambini su come consultare sì, il vocabolario. E in realtà bambini che devono sapere che cos'è l'infinito di un verbo, che devono sapere che cos'è l'etimologia, che devono sapere le abbreviazioni, che cos'è un avverbio, quindi insomma in realtà non è così semplice, può essere un pochino più impegnativo di quanto si creda. E consultare il vocabolario, non so se ci avete mai pensato, diventa un procedimento mnemonico alla lunga, però inizialmente anche chi poi ha studiato magari il latino, non dico tanto il greco quanto il latino, c'è una cosa molto importante generalmente da ricordare, no? Che generalmente dopo i sostantivi la cosa più ricercata è il verbo, e che va cercato all'infinito, quindi sempre andare, che mangiare. Non è una cosa banale, scontata. No, visto il periodo storico in cui stiamo vivendo, io non ho dubbi che ci siano persone che magari cercano mangio e non lo trovano e dicono ah, vocabolario brutto, no, rozzo, nulla. E non serve a niente. E no, in realtà invece... Ma vabbè, qui siamo un po' pessimisti però. No, guarda, per me questa settimana è stata veramente cruciale. Mi stavo trasformando, a proposito, in Cruciani. Cruciale. Presente Cruciani. Io sto per diventare come lui. Poi dopo me ne vado, ma... Altra cosa importante, lasciamo stare Cruciani, che ci sono venuti i brividi lungo alla schiena. Un aggettivo e un sostantivo nel vocabolario vanno cercati non come vengono trovati nel testo, ma sempre al singolare maschile. Fatevene una ragione. Perché questa e cosa... E smettetela di brontolare. Esatto, purtroppo è così. Gatto, sostantivo, maschile, singolare. Etimologia felis, eccetera, eccetera. Per cui non troverete altro. Quindi... Facendo però un po' un'analisi di quelle che insomma sono le caratteristiche della ricerca su un vocabolario, ci rendiamo conto di quanto si diano per scontate tante cose, in realtà non lo sono, e soprattutto come si possa essere uno spunto di riflessione su quelle che sono le nostre capacità di ricordare quanto ci è stato insegnato a scuola sui verbi, i sostantivi, gli aggettivi, gli avverbi, quindi può essere una buona messa alla prova. E la cosa cruciale, dai, un'altra volta, che si diceva con la Nenia quando abbiamo scritto questa puntata, era quella dell'utilizzo corretto del vocabolario, che è imprescindibile dalle abbreviazioni. Per forza. Cioè, se cerchi un verbo, troverai subito dopo l'abbreviazione... Che spesso nelle ricerche, nei compiti, viene trascritto per intero. Tipo, magari compito a casa, scrivi il significato della parola, bla bla bla, e il furbone che copia e incolla mette tutto il paragrafo, esatto, compreso di e poi quando l'insegnante gli chiede di leggere in classe quello che ha trovato, capolavoro, non hai idea di quello che sta leggendo, per cui. Oh, anche perché tipo se cerchi un verbo trovi v, ma se cerchi un sostantivo, oddio, che cazzo è un sostantivo? Fammi un doppio esame. Ma facciamo una puntata sulle parolacce. Oh, che bello, sì, preparatevi, forse giovedì prossimo. Lanciata così, mi piace, bene. Perché ho appena detto cazzo. Io sono... Vabbè, ma detto da te... Come diceva Mariano Di Boris, posso dire cazzo? Oddio, quindi, Mariano. Vabbè. Mariano. Quindi se parliamo... però prima aspetta, di parlare delle abbreviazioni faccio giusto un salto su quella che è l'etimologia. Poi dopo magari ci ascoltiamo una cosa bellissima. L'etimologia, che è, in realtà lo sappiamo tutti, l'origine della parola. Se noi prendiamo ad esempio la parola forte, con la quale mi piacerebbe farvi un po' ragionare, anche sulle abbreviazioni che vedremo dopo, vediamo che è una parola di origine indoeuropea, è arrivata attraverso il latino, e l'uso in italiano è attestato da prima del 1226. L'etimo di questa parola è fors. Anzi, noi sul vocabolario come abbreviazione troviamo origine indoeuropea, però poi troviamo un etimo che è appunto derivato dal latino. L'etimologia è importante, ci aiuta un sacco, soprattutto chi ha fatto latino bene o male si ricorderà o ci farà caso al fatto di essere un pochettino più avvantaggiato rispetto magari a chi non ha studiato il latino, perché la conoscenza di alcune parole, la maniera con cui applichiamo suffissi o prefissi spesso deriva dal latino, e quindi anche qui abbiamo da suggerirvi una bella fonte che è www.etimo.it, che così, se intanto che avete un momento libero e vi andate a sfogliare anche col cellulare questo sito, insomma, troverete sicuramente tanti spunti. Quindi una parola al giorno.it, etimo.it, che secondo me, guardandoli un giorno sì un giorno no, già alla lunga vi aiutano parecchio, perché insomma in un anno sono... Stiamo dando i buoni consigli come nelle trasmissioni tipo vivere sani e belli. Mi raccomando, mangiate la cicoria e una mela al giorno. Non so se voglio essere la Lambertucci cercando infatti di ricordare il suo nome, per quello mi... Rosanna Lambertucci che parlava tutta così. E poi c'era anche, sempre in quella fascia oraria, un po' prima un po' dopo, col programma di giardinaggio, col tipo con il berrettino azzurro. No, questo mi manca. C'era, come cacchio si chiamava? Luca Sardella, ragazzi. No, vabbè. Ma a proposito di remember, visto che si parlava di etimi dal latino, e come dire, insomma, abbiamo una cosina da farvi sentire molto importante e conosciuta. Sì, soprattutto e importante. Piacevole. Dormite pure tranquilli, domattina vi sveglio io mezz'ora prima di Ortisei. C'era poco da stare tranquilli, perché Filini era un dormitore da competizione. Ma ancor più da temere era il geometra Calboni, per una sua turba dal nome scientifico di ventilatio intestinalis putrens. Varia diventò subito irrespirabile. no, mamma mia, che puzza, puccettone, ma perché non vai in toilette invece di appestarci con questi tuoi venti? Ma scusa Calboni, ma sei impazzito? Ma non sei tu che ti sei sempre vantato di avere partecipato a questi campionati? Io? Di... Quando mai? Ma che fiete? Senta ragionier Fantozzi, qui non si respira più. Abbi la compiacenza di andare fuori dallo scompartimento a scaricare l'aria dei soggettini, ha capito? Va di fuori ragioniere, va di fuori! Ma guardate che sono qui. Ci faccia il piacere, se ne esci, se ne esci. Vadi, vadi! Ma sei Calboni che si è sempre vantato. Buccettone, quando si è così, si prende un singolo. Ragione, esca, esca! Non si resiste! Calboni, Colzi e Filini optarono per la scuola di Roccia. Non mi attacco. Capo cordata, fu messo imprudentemente Calboni. Scusate! Ora c'è poco da ridere, ma quando c'è stato il crack Parmalat parlavano di cordata, mi veniva sempre in mente questa scena. Esilaranti. Mi sto per sentire male. Oddio, che bello. Ora mi è venuta voglia di rivedere. Domenica, secondo domenica me. Sul divano. Giornata domenica. Fantozzi. Oh, che bello. Bellissimo. Allora. Vabbè. Allora, andiamo avanti, figliuoli. Figliuoli. Ci parlavi di Forte. Parlavamo di Forte. E di Etimo. Che, appunto, con il suo Etimo... Anzi, in realtà, non troviamo solamente l'Etimo nella parola Forte, ma troviamo un sacco di abbreviazioni. Forte può essere un aggettivo... e quindi lo troveremo abbreviato con agg. Però può essere anche un avverbio derivato av con forza, gagliardamente, dice il Garzanti, a gagliardo. Quindi abbiamo tutte queste abbreviazioni agg, av, e quelle che creavano sempre più difficoltà erano quelle del sostantivo maschile. Detto anche Santa Maria Novenza. Santa Maria. Che appunto, insomma, ci creava un po' di scompensi. Sosta quando... che? Che cazzo è un sostantivo? È un nome? No, e quel giorno che l'ha spiegato io mancavo, no, io non c'avevo la diarrea. E quindi era sempre il grande casino quando trovavi SM, ed era sempre SM, oppure invariabile semmai anche si trovava. Poi sono arrivati i codici fiscali e ci siamo abituati, esatto, a tutto. E, poi abbiamo anche... cosa abbiamo? No, in realtà per Forte abbiamo solamente queste. Sì, i vari significati, le varie sfumature che ti fanno anche quindi capire perché poi non è così semplice come la fanno spesso le scuole, esatto, e il corpo insegnanti, di se non capite una parola in una frase prendete il dizionario, perché non sempre in quel contesto quella parola può voler dire quella sfumatura di secondo significato. Un sinonimo spesso ti può portare da un'altra parte nella frase, purtroppo quella parola ha quel significato lì, e un sinonimo spesso ti rende le cose più complesse. Non è così semplice. È vero. E un'altra cosa non semplice è la trascrizione IPA. Oh, vabbè. Non so se vi siete mai cimentati a provare appunto quella serie di una trascrizione, un piccolo codice nella parentesi quadrata che appunto ci indicherebbe, non a noi italiani, oppure sì ai più curiosi, ma a chi non è italiano e usa monolingue, quale dovrebbe essere la pronuncia giusta della parola, dei nessi consonantici, delle semivocali, è tutto un po' così. E questa generalmente è una parte che viene tralasciata, però in realtà è parecchio divertente. E questa cosa qui infatti poi ci porta in realtà anche a una distinzione fra il dizionario, quello classico, quello canonico, che noi intendiamo come libro in cui poter andare a cercare dei significati, e quello che invece è il dizionario mentale. Che cos'è questo dizionario mentale? Allora, nel dizionario classico noi troviamo le parole con un significato che è spiegato più o meno bene, più o meno in maniera arricchita, con le parole o con le immagini, a seconda dei casi. Invece, nel dizionario mentale cosa abbiamo? Abbiamo un lessico che è mentale, quindi tutte le informazioni fonetiche, sintattiche, morfologiche che noi conosciamo e apprendiamo nel tempo di una parola. Quindi, appunto, la differenza fra essere padroni di dire che, cioè di gestire nell'uso la parola uscire, esco, proprio perché abbiamo questa facoltà mentale di imparare l'uso vero e proprio, il movimento, il gioco che fa la parola nelle varianti che può avere nel parlato, nello scritto. Quindi tutto quello che conosciamo relativamente all'uso e all'esperienza, quello è il nostro lessico mentale praticamente. E ce l'abbiamo praticamente tutti, in sostanza. Più o meno. Se fate quello che ho perso io oggi. Razzi, stamattina mi sono svegliata senza un lessico mentale, per esempio. Succede, a volte succede, sì, anche sì, questo. Sì, sì, sì. Succede. A me succede tipo spesso. Tutte le flessioni, tutte le forme flesse, tutto quello che noi sappiamo, anche senza esserne consapevoli, dell'utilizzo delle parole. Le flessioni regolari, irregolari, tutte quelle robe che... Viene riportato sul vocabolario, giusto? Come? Con plurale irregolare viene a volte riportato, sì. Come... Però in realtà noi ne siamo già padroni ancora prima di avere l'accesso, esatto, alla lettura, alla scrittura, cioè tutto quello che si forma precedentemente. Un bambino, cioè, che so non che sa salame è maschile, seppur finisce con una E. E quando inizi a scrivere a scuola ti dicono se finisce con la E, al 99% è femmina, è femminile, invece no. Però tu lo sai già da piccolo, perché la mamma gli hai già chiesto il panino con salame. Salame, sì. E quindi tranne la differenza Ferrara. È proprio quella. Ah, sì? Ferrara il salame è la salama. Davvero? È un tipo particolare. Ma guarda, questa mi mancava. Interessante. E il mortadello? Non esiste ancora, però lo possiamo sempre coniare. Io ho diversi esempi di uomini che possono corrispondere alla descrizione del mortadello. Caratterialmente e fisicamente. Non male. Va bene, sì, questo è quanto. Poi vabbè, ci sono anche diversi tipi di dizionari, quelli tecnici, ce n'è una quantità... propositata. Davvero. Tecnici, medici, anatomici, elettronici, del gioco, dizionari inversi, dizionari di frequenza, cinema, le concordanze, dizionario del cinema, dizionario delle patatine, dizionario di tutto. Dizionario della musica. Ed è ora di far sentire un pezzo. Ah, parta. Siamo sicuri? Ovviamente non vi siete dimenticati in queste settimane che la Brusca è sempre un'anima trash. Sempre da te, sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che adotto da un po', la mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole, ma poi, prima o poi, ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore. rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film, dove lei farà la pazzia. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore, se vuoi, se vuoi, ora parla con lui. Vorrei fermare un'immagine, sentirla entrare dentro di me. Un tuo silenzio più complice, chi non l'avesse capito, i fiumi sono di parole. E questi erano i Jalis, che sono i wannabe Dead Can Dance italiani, non ce la faranno mai. Vabbè, ci hanno provato. No, ma lui, lei potrebbe anche, insomma, c'ha qualche potenziale, sa cantare, dai. Non è Lisa Gerrard, ovviamente, però lui è proprio una roba allucinante. Poverini. Si sono riformati, attenzione. Ah sì? Sì, sì, sì, si sono riformati. A te stai sul pezzo, certo. Proprio, sei informatissima. Certo. Cioè, dopo una parola al giorno, la Jalis, seconda è la metto pagina. Gli alert, gli RSS sui Jalis. Ma invece, ti è mai capitato di non avere la pagina salvata da qualche parte o così, e hai cercato una parola al giorno e ti viene la parola del Signore? C'è tutta una serie di siti di letture di Vangelo, bellissimi. Non mi è mai successo. Io ovviamente sono andata a vederli, sì. Sono divertentissimi. No, vabbè. Mi ricordo il mannaggiatore che fecero all'Hack Meeting qualche anno fa. Era questo cubottino che che mannaggiava tutti i santi del giorno. Mannaggia a San Sebastiano. Sì, con la voce impostata. Sì, sì, mannaggia, sì, sì. A San Sebastiano. Che mannaggia bello. A ecco, San. Ecco, quello andrebbe ricercato. Questo è stato uno dei mannaggia a Sant'Eusebio. Non lo voglio. Un'invenzione geniale. Bisogna, ma cercalo, il mannaggiatore, lo trovi. Portachiavi. È bellissimo. Qui sì, portachiavi sì. Al posto della papera che fa qua qua qua. Sì, sì. Mannaggia Sant'Eusebio. Sì. Ah, che bello. Vabbè, andiamo avanti, via, perché il tempo sì. Stringe, non abbiamo detto niente ancora. Nulla. Però siamo state divertenti sì. E brave come sempre. A me in realtà mi sono venute in mente altre abbreviazioni del vocabolario. Che sono abbastanza frequenti e che possono gettare nello sconforto diversi lettori. Tipo ling, quindi significato ovviamente linguistico. Per esempio in forte è la consonante che è pronunciata con maggiore tensione articolatoria. Prendendo sempre forte, magari c'è un significato grammaticale, cioè che fa riferimento a una categoria appunto grammaticale della flessione, quindi troverete gram. Figura letteraria, alto, fiero, nobile, forti sentimenti, forti imprese. Letterario, quindi un significato proprio che viene utilizzato nella letteratura, quindi forte significa anche disagevole, aspro. il passo forte, il nodo forte, difficile da disfare, che è Manzoni se non sbaglio. E poi gli avverbi che vengono formati generalmente, per cui in questo caso forte, se trovate av, è perché dà origine alla parola avverbio fortemente. E basta, insomma, direi che questo è tutto qua. Sì, sì, sì, tanto... Poi in realtà queste sono per lo più le abbreviazioni che troviamo sui vocabolari più diffuse. Poi ovviamente nella prima pagina praticamente c'è la leggenda con tutte le abbreviazioni che mano a mano che uno le legge e prova ad applicarle, insomma, acquista sicuramente dimestichezza. E di questa cosa che avevi parlato tu prima, di questa iconicità della lingua dei segni anche, anzi, del vocabolario mentale, perché dell'iconicità non ce n'è parlato. Sì, quella era una piccola curiosità. Questo vocabolario mentale è una cosa bellina, perché in realtà si rifà anche a tutte le strategie mnemoniche che noi abbiamo per cercare, ad esempio, di ingrandire il nostro vocabolario nel parlato quotidiano. Sì. I tag mentali, cioè si fa un po' un parallelo con quella che è la realtà del... quella che è la realtà del mondo web che ci circonda. Noi siamo appunto abbastanza avvezzi a quelli che sono gli hashtag, a quelli che sono, si diceva prima, feed RSS, quelli che sono, insomma, tutti i vari appigli e segnalibri digitali con cui cerchiamo di ricordarci le cose. Però noi possiamo usare anche famosi. Una tecnica di memorizzazione che viene utilizzata anche nella psicologia un pochettino più recente, che sono i tag mentali. Praticamente noi riusciamo ad associare, anzi a memorizzare, le parole per assonanza, cioè per un ricordo, un suono o un qualche cosa di rimando, appunto, che ci fa collegare questa nuova parola che sta entrando nel nostro magazzino, diciamo, quindi nei nostri cassettini mentali, a qualcosa che c'è già. Generalmente questo succede per le parole più difficili, più lunghe, quando dobbiamo ricordare un etimo e quindi vogliamo ricordarci la parola, per esempio, latina o greca, e quindi ci sono questi appigli, questi giochetti, detti appunto tag mentali, che possono aiutarci a ricordare meglio. Così, se vogliamo un po' allargare il nostro vocabolario e non fare come la sottoscritta, che alle 10:30 della mattina la parola del giorno e poi dopo quella bocca aperta tipo io a mezzogiorno già rimosso anche quella del giorno prima, quello, certo, chiaro, lasciando il pranzo sul tettuccio della macchina, tipo. Dovrei fare come i bambini, no? I bambini si dice sempre fate la rubrica delle parole nuove del mese. Dovrei farlo anch'io. Sì, probabilmente trascriverla, ecco, per me un esercizio che è sempre stato utile durante il periodo di studio è trascrivere, perché comunque l'unico appiglio a cui posso rifarmi è la memoria visiva. Il cartolaio che quando ci vedeva arrivare gioiva, questa vuole 80 quaderni. Si va in vacanza anche quest'anno. È così, vabbè. Però prima mi è scappata una cosa detta, che è questa dell'iconicità, ce ne volevi parlare un attimo. Sì, no, era un confronto fra due termini che sono in italiano la parola cattivo, che etimologicamente ha appunto il significato di essere catturato dal diavolo, e in lingua dei segni, per esempio, si fa con quella configurazione delle mani che è a forma di corna, praticamente senza pollice, che ha comunque un rimando al fattore diavolo, al fattore sì, vicino al naso, con doppio movimento. E la gente dice: ah, guarda, però vedi, la lingua dei segni alla fine è facile, guarda come rimanda. A parte non è facile, perché altrimenti tutti l'avrebbero già imparata. Invece, esatto, Fare imparare buongiorno a un professore sembra diventato la cosa più difficile e irraggiungibile. Sì, poi vengono fuori delle cose che i bambini, meno male, dicono: ok, faccio finta di niente. Ma in realtà è normale, è semplicemente nella lingua dei segni ci sbalordisce, sembra quasi un, non so, ci stupisce, mentre nell'italiano non siamo abituati ad andare a vedere l'etimologia, non ne abbiamo bisogno fondamentalmente, e quindi tutto quello che vediamo anche nella lingua dei segni che fa ridere de buffo probabilmente lo è anche nell'italiano. Sì, qui ora si inizia anche a bestemmiare in lingua dei segni, questo è risparmio. E quindi insomma era carina questa cosa qua. C'è sempre il diavolo. C'è sempre il diavolo. Però è vero, se prendi un termine latino abbastanza diffuso, che è quello della captatio benevolentiae, quindi qualcosa cattivo deriva da cattivus. Sì, catturato dal diavolo, sì, capt. Sì, ha sempre c'è sempre un rimando, ma è normale, non potrebbe essere altrimenti. Il problema è che lo è anche la lingua, cioè anche nella lingua parlata, appunto. È bellino questo segno, mi piace. Sì. Poi magari metteremo. Sentite anche il. sì, tutto chiaramente. Va bene, sono le 8:20, vi parleremo di altre cose altri giorni, perché oggi, sì, oggi abbiamo fatto, visto che le tre puntate scorse sono state belle impegnative, ecco, anche per noi, oggi vi diamo i 10 minuti liberi. Lo sapevi invece che i bambini, per esempio, ecco un'altra cosa interessante, leggera, tra i 19 e i 21 mesi i bambini hanno l'esplosione, si chiama proprio esplosione, sì, del vocabolario, bellini, e imparano 9 parole al giorno, sono tantissime. Cosa. È una cosa. Io ho sotto gli occhi un bambino di quell'età e vedo cosa è in grado di fare. E poi ne fanno anche sovraestensioni, cioè tipo usano la parola cane anche in contesti in cui non serve, tipo però perché animale. Fa parte di una categoria che ha già classificato. Sì, che bellini. Basta parlare di bambini. Basta parlare di bambini, però li ascoltiamo un po' in qualche modo con questo. Sì, pezzo. Questa è una canzoncina per i vostri non bimbi che non vogliono cenare. Non è il coccodrillo come fa, però no. Siamo lì. Ciao, a dopo. Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole. Andiamo a cercare insieme parole per pensare. Andiamo a cercare insieme le parole per pensare. Abbiamo parole per fingere, parole per ferire, parole per fare solletico. Andiamo a cercare insieme le parole per amare. Andiamo a cercare insieme le parole. Parole per piangere, parole per tacere, parole per fare rumore. Andiamo a cercare insieme le parole per parlare. Andiamo a cercare insieme le parole per parlare. Anche perché questa è l'ora in cui i compiti dovrebbero essere finiti, e quindi controllate se i compiti sono stati fatti, se domani arriverà un bene, bravo, bravissimo. Una bella nota sul diario. Una bella noticina, un rapporto. Si chiamano rapporti ora? Ti faccio un rapporto? Sì, no, quando è sul registro, ah. Sì, quando è sul registro. Altrimenti è una comunicazione alla famiglia. Dammi il diario, ti scrivo una nota. No! La sensazione della nota sul diario, no, te la ricordi? La differenza è che adesso sono i genitori che si incazzano con gli insegnanti, non con i bambini. Ovviamente, scrivono sì. Sul diario. Come si permette di mettere una nota a mio figlio? Evidentemente ce n'era bisogno. Vabbè. Allora, quindi abbiamo fatto tutto a ritroso, abbiamo iniziato la puntata con il pezzo serio, quello bello, quello da saluti. Non ci resta che chiudere salutando e dando tanti bacini e bacetti, ricordando postawombat@insiberia.net se avete bisogno di scriverci o farci volentieri delle comunicazioni. Mettete nei segnalibri il nostro sito. Brava. www.wombat.noblogs.org. Yes. Poi c'è, vabbè, Facebook, Twitter, le solite cose. Ma le continuiamo a dire, ma anche no, ma le saprete a memoria ormai, giusto? Sì, ormai siete avvezzi. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E quindi ci salutiamo così, lasciandovi con un forse puntata scurrile. Vediamo se ce la facciamo. E lì poi voglio vedere un pochino la parte musicale, mi sbizzarrisco. Cesso? Quello per forza. Ma no, l'abbiamo già mandata, cara mia, peccato, però la metteremo come sottofondo. Tutta la sì. Trasmissione con Pippo Franco. Oddio. Ah, posso dire una cosa su Pippo Franco? Sì. Visto che io sono sempre aggiornata sul trash. Siccome è stato tipo il 35esimo, mi sa, anno dall'uscita di Kikokokokokurukurukurukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Pippo Franco ritornerà tra noi, è vivo e lotta insieme a noi, con un nuovo pezzo rap che riprende pezzo quello rap. Cioè già chi era, no. era tipo mezzo rappato, tipo una rappatissima rappata di Pippo Franco, l'ha spata. Io non me la perderò per nulla al mondo, mi è venuto un crampo, guarda, un momento. Ecco, se siete così gentili e vorrete seguirci anche la prossima settimana, io forse riesco a darvi un'anteprima, ma non perché ho rapporti con Pippo Franco in nessuna maniera, perché c'era un qualche cosa che avevo salvato da qualche parte, sì. Vediamo se qui questa puntata tranquilla, la prossima, ragazzi, vi si fa il paiolo, come si dice. E a proposito, chiudiamo, vi salutiamo con uno che il paiolo l'ha fatto per davvero alla coprotagonista di questa scena, perché se non ha puntata a ritroso non chiudiamo con una canzone. Eh sì, una bella rospatina. Ecco. Allora ci sentiamo giovedì prossimo. Buon proseguimento. Ricordatevi, troverete i nostri podcast nel sito. Se volete riascoltarvi una puntata perché magari, che so, eravate impegnati a fare altro, oppure eravate a judo o a tai chi. E allora, abbiamo fatto le squadre prima. Sì. Ciao. Ciao. E poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente. Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto. Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non... È stupenda questa battuta. Non è una battuta. Non no. era una battuta. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi. Ma che dice? No, forse ho toccato un argomento che non... No. L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione, preferisce... matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla? Rapporto in crisi, però è così kitsch. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Senta, dove l'ha andata a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi, ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto... È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa! E tu? Oh! Come